New Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. È arrivata una buona notizia per la Terra. L'Unione Europea ha ratificato l'accordo sul clima di Parigi. Mercoledì scorso a Strasburgo c'è stato il voto del Parlamento Europeo sull'intesa per limitare l'aumento della temperatura globale. La decisione dei ministri dei 28 spiana la strada per arrivare in tempo all'ONU entro il 7 ottobre, con tutto in regola per essere tra i protagonisti della conferenza sul clima di Marrakech a novembre, dove si discuterà dell'attuazione degli impegni di Parigi e soprattutto di investimenti economici. L'accordo sul clima di Parigi è considerato la ciambella di salvataggio che dovrebbe cercare di proteggerci dagli effetti peggiori dei cambiamenti climatici. Ne parliamo con l'europarlamentare Giovanni Lavia, presidente della Commissione Ambiente e capo delegazione del Parlamento Europeo a Parigi. Che cosa prevede l'accordo? L'accordo prevede che più di 190 paesi a livello mondiale si impegnino tutti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra per raggiungere un obiettivo alla fine del secolo, che è la riduzione del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi. Che cosa si è impegnata a fare l'Europa? L'Europa si è impegnata a ridurre del 40% le proprie emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 come primo passo, a aumentare il contributo delle energie rinnovabili al mix energetico europeo al 27% entro il 2030 e a far sì che si riducano i fabbisogni energetici, quindi aumenti l'efficienza dei sistemi del 27% entro il 2030. E questo è il primo passo verso un processo di lungo periodo di decarbonizzazione della nostra economia. Il voto arriva giusto in tempo per permettere ai negoziatori comunitari di sedere al tavolo delle trattative a Marrakech. L'approvazione al photo finish indica forse un cambiamento di ruolo dell'Europa che da locomotiva nelle trattative passa come soggetto più passivo? No, sicuramente no. Fino adesso siamo stati la locomotiva, dopo Kyoto siamo stati l'unica grande realtà sul piano mondiale che ha spinto ancora la lotta al cambiamento climatico. Oggi abbiamo tante partner che lavorano con noi. Una cosa è certa, abbiamo accelerato alla fine perché volevamo essere presenti a Marrakech, alla COP22, con un ruolo ancora di guida di questo processo. Saremo presenti, negozieremo sulle condizioni applicative e soprattutto sorveglieremo sulla applicazione dell'accordo di Parigi negli anni che seguiranno. Gli accordi di Parigi saranno sufficienti a scongiurare gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici? È un primo passo, adesso bisogna applicarli, ma una cosa che è contenuta negli stessi accordi e che è estremamente importante è che ogni 5 anni si rivedrà il percorso, cioè ci si siederà tutti quanti per vedere se i contributi che abbiamo indicato da parte di tutti i paesi che hanno sottoscritto l'accordo sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo di lungo periodo, che è quello che dobbiamo tenere ben presente e fermo davanti ai nostri occhi. New Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.